in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. E oggi sono abbastanza differenziati i titoli principali. Il Sole 24 Ore apre sulle parole di Boccia ieri al convegno di Rapallo della Confindustria Giovani, e perché si è parlato di nuovo di cuneo fiscale. Sapete la differenza tra tutte quelle tasse che vengono pagate sul lavoro direttamente dai datori di lavoro. Il vice ministro per l'economia, per lo sviluppo economico, Morando, ha detto che si sta di nuovo studiando un miglioramento di questo, un taglio del cuneo, quindi un miglioramento di questa situazione fiscale molto pesante in Italia da sempre. Quindi il titolo: manovra leggera, taglio al cuneo. Perché manovra leggera? Perché un'altra delle cose che ha detto Morando è che siccome il PIL cresce sempre 0, però più del previsto, probabilmente non ci dovrà essere quella manovra paventata come lacrime e sangue, che poi in realtà è una manovrina, perché sappiamo che è una correzione di quella che era già stata preannunciata. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche la lettera al risparmiatore, come ogni domenica, di Vittorio Carlini. Il titolo e l'azienda esaminata questa settimana è la Ferrari, che punta ad ampliare la gamma delle autovetture, sempre restando naturalmente nel segmento delle auto di lusso. Vi segnalo dalla prima pagina anche l'intervento, consueto intervento della domenica, dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte: dialogo con l'Islam per isolare i cattivi maestri. E qui poi c'è anche un riferimento all'articolo che trovate a pagina 5 sull'incontro che c'è stato ieri tra Papa Francesco e il capo dello Stato Sergio Mattarella. Due analisi sul voto, perché oggi 1.004 comuni italiani vanno al voto, alcuni sono anche importanti e saranno anche un test elettorale non solo a livello di comuni proprio, ma per vedere come funzionano certe alleanze. Parlo soprattutto di Genova e di Palermo. Il Corriere della Sera al titolo principale, dedicato un po' alla sorpresa di ieri, lo trovate su tutti i giornali, stop alla gara per assegnare i diritti TV. Ora è tutto da rifare. Il commissario della Federazione Italiana Calcio, Tavecchio, dice: non svenderemo la Serie A. Mediaset non si è presentata, non ha offerto alcunché. Sky ha offerto 494 milioni, e pensate che la Lega Calcio puntava a ottenere 1 miliardo, quindi più del doppio di quello che ha offerto Sky. La fotonotizia è dedicata a Macron, perché oggi si vota di nuovo dopo le presidenziali. Sapete che in Francia c'è un sistema elettorale e anche una repubblica organizzata in modo diverso, quindi si è eletto direttamente il presidente, che è anche il capo del governo, ed è appunto Macron, e oggi invece si vota per rinnovare il Parlamento. Macron, l'irresistibile, ora vuole stravincere. Poi c'è quello che si chiama palchettone, cioè l'articolo con il suo titolo naturalmente subito sotto la testata, che è dedicata al voto. Come vi dicevo, Genova e Palermo, test per i partiti. Il Messaggero apre sulla questione dell'asta per i diritti TV, che è saltata. Caos calcio, anche qui Mediaset si è ritirata, 500 milioni di Sky non bastano, e come su altri giornali, sul Messaggero trovate un'intervista a Tavecchio. La fotonotizia invece è dedicata all'incontro tra il Papa e Mattarella, questa volta è il Papa che è andato al Quirinale, e tra l'altro poi c'è stato anche un incontro con i bambini delle zone colpite dai delle zone del centro Italia colpiti dai terremoti quest'estate, e poi anche all'inizio dell'autunno naturalmente. La Repubblica titola invece sul voto: comuni, l'ora del voto, e Pisapia gela Renzi, ora non c'è dialogo. Matteo Renzi, infatti segretario del PD, aveva nei giorni scorsi fatto questa apertura a Giuliano Pisapia, che invece sapete ex sindaco di Milano, ha creato la sua forza di sinistra. Però Pisapia gli ha risposto: no, non, in questo non è il momento per pensare a una coalizione appunto di centro-sinistra. In prima pagina anche su Repubblica il caos nel calcio. La fotonotizia anche in questo caso è di Papa Francesco, che tende le mani verso questi bambini arrivati per incontrarlo dalle zone del sisma. E poi vi segnalo, se abbiamo tempo poi lo vedremo, un articolo di Vittorio Zucconi che parla del trasloco di Melania Trump, che sapete per un periodo è rimasta a vivere a New York soprattutto perché il figlio che ha avuto da Donald Trump, che è poco più che un bambino, non è ancora un adolescente, doveva finire le scuole. Ora le scuole sono finite e in un certo senso Melania Trump non ha più scuse, ma comunque veramente magari era tutto vero, perché su queste sue spiegazioni del perché non volesse lasciare New York per Washington sono state fatte molte speculazioni. Ora però il trasloco è ufficiale, ci sono venuti, racconta Vittorio Zucconi, 90 furgoni soprattutto per portare da New York a Washington tutto il guardaroba di Melania Trump. In edicola con la Repubblica, come ogni domenica, l'Espresso. La copertina si intitola Brutta Ciao, naturalmente invece che Bella Ciao, che è una delle canzoni simbolo dei partigiani. Divisioni, liti e tradimenti e lo spettro del patto con Berlusconi. Così la sinistra in Italia muore. Dizionario per salvare l'idea politica che sogna un paese migliore. La Stampa, come la Repubblica, titola sulle elezioni che ci saranno oggi, dicevamo, in 1.004 comuni. Si vota dalle 7, quindi già da 23 minuti, alle 23 di stasera. Effettivamente, come sottolinea la Stampa, i leader in questa campagna elettorale sono rimasti nell'ombra, si sono occupati nei giorni scorsi più di legge elettorale, di strategie, di alleanze, che non appunto di queste elezioni che comunque coinvolgono, ridendo e scherzando, 9 milioni di italiani. L'unico che ha fatto dei comizi, sempre ricorda la Stampa, è Grillo. Ma la fotonotizia riguarda un fatto che è avvenuto ieri, che soltanto la Stampa riporta. La foto è quella di un missile con un raggio di gittata di 500 km. La notizia è che Mosca ha puntato i suoi missili su Berlino e, scrive la Stampa, è guerra fredda. Perché? Perché Putin ha lanciato questa sfida all'enclave di Kaliningrad e perché sono stati violati i patti sul disarmo che erano stati firmati, pensate, nel 1987, quindi quando c'erano Gorbaciov e Reagan rispettivamente al Cremlino e alla Casa Bianca. L'Avvenire sceglie di titolare sull'incontro che c'è stato ieri, dicevamo, il Papa al Quirinale, insieme per l'Italia. Hanno fatto due discorsi, li trovate poi alle pagine 6 e 7 dell'Avvenire, che sono apparsi molto in sintonia, ma anche molto, molto profondi, toccando soprattutto il tema del lavoro e del lavoro per i giovani. La fotonotizia invece è dedicata, sappiamo che giovedì sono finite le scuole nella maggior parte d'Italia, dedicata alla stagione degli oratori, la buona estate di 2 milioni di ragazzi, da nord a sud 400.000 animatori tra gioco e interazione, perché sappiamo che soprattutto se lavorano entrambi i genitori, avere di fatto tre mesi, giugno, luglio e agosto, in cui i bambini non vanno a scuola, vuol dire trovare delle soluzioni alternative, non tutti naturalmente possono andare in vacanza a tre mesi. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX di oggi perché ovviamente titola sulle elezioni che ci sono a Genova. Genova, insieme a Palermo, è la città più grande di queste, il comune più grande di questi 1.004 in cui si vota oggi. Alleanze Genova-Crocevia. In Liguria, secondo il Secolo XIX, si gioca addirittura il futuro delle coalizioni nazionali, ma i partiti si nascondono. La fotonotizia è dedicata al grande concerto che c'è stato all'autodromo di Imola. 83.000 persone per questo concerto dei Guns N' Roses, che era un po' il primo concerto dopo la prima, diciamo, occasione in cui si radunavano in un unico luogo tantissime persone dopo quello che è successo sabato scorso a Torino, e naturalmente anche il primo concerto in Italia dopo quello che è successo a Manchester al concerto di Ariana Grande, e quindi un concerto con moltissimi controlli. Però il titolo del reportage di Tortaroro, che è il critico musicale della Stampa e quindi anche del Secolo XIX, i controlli non spengono la febbre del rock. La prima pagina del Giornale, Grillo, il giorno della paura. La tesi del Giornale infatti è che in molti comuni il Movimento 5 Stelle rimarrà sconfitto oggi. C'è una ripresa di discussione sulla legge elettorale, perché Berlusconi e Forza Italia sostengono che, soprattutto Berlusconi, che si può riaprire la discussione, mentre sapete che Emanuele Fiano, che era stato l'architetto del PD, di questo accordo A4, PD, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, ha detto che non si torna sulla discussione, e la stessa cosa hanno detto molti altri leader. Quindi l'unico che ha ancora una speranza di riprendere la discussione per una legge elettorale, una nuova legge elettorale il più possibile condivisa, in questo momento è Berlusconi e Forza Italia. Ultima prima pagina che vi segnalo prima della pausa, dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, quella del Fatto Quotidiano, che invece torna sulla questione delle dichiarazioni del boss Graviano, che sapete ha, secondo la trascrizione delle intercettazioni, avrebbe detto che Berlusconi nel 92-93 aveva in qualche modo avuto dei contatti con la mafia. Graviano ma ribadisce: Berlusconi deve venire alla sbarra con me. Ma ci lasciamo un attimo, come vi dicevo, per una pausa e gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. Grazie in particolare a Giovanni, che ha mandato un messaggio da Tessa, che ho appena guardato in provincia di Chieti. Lui fa il pizzaiolo e, poiché, come dice un mio amico, io ho una visione pizzocentrica della vita, mangerei solo pizza, prometto che la prima volta che sarò vicino a Chieti o in Abruzzo andrò a trovarlo. Ma dicevamo, ci mancano ancora poche prime pagine dei giornali. Libero in particolare titola su un'intervista che Silvio Berlusconi ha rilasciato a Pietro Senaldi, vice direttore di Libero. Il titolo è Berlusconi all'attacco. In realtà Berlusconi parla un po' di tutto, ancora dicevamo appunto di questa sua intenzione di cercare ancora un accordo su una legge elettorale, fa una serie di altre dichiarazioni, anche appunto la legge elettorale tedesca, che poi sappiamo tedesca fino a un certo punto, comunque quell'accordo che si era cercato faticosamente di trovare per avere una nuova legge elettorale il più possibile condivisa. Berlusconi dice non è morta, poi ribadisce di voler governare con la Lega, anche se Salvini gli ha risposto più volte nei giorni e nelle settimane scorse no grazie. E poi anche la dichiarazione sul voto che ci sarà in autunno per la cosiddetta autonomia della Lombardia. Berlusconi dice voterò sì. Il Manifesto dedica la fotonotizia a Macron in un bagno di folla durante la campagna elettorale. Oggi si vota in Francia per il rinnovo del Parlamento, il titolo sotto missione. Però il palchettone, quindi il titolo subito sotto la testata, la carica dei 1.004 comuni al voto. Ultima prima pagina che vi segnalo, prima di passare a segnalarvi qualche articolo all'interno dei giornali, quella della Verità: guerra tra chi ci spia il conto in banca. Secondo Libero, all'Agenzia delle Entrate, dove sapete c'è stato di recente un cambio al vertice, Rossella Orlandi non è più il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, la Verità la chiama l'edifisco e asserisce anche defenestrata da Renzi, prima di decadere si autonomina vice direttore e con i dirigenti a lei fedeli prepara le barricate al nuovo numero uno Ruffini. A pagare saremo noi, secondo Libero, la prima grana è già in arrivo. Speriamo di no, che a pagare non saremo noi, soprattutto noi a reddito fisso o chiunque paga già moltissime tasse. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo come sempre la pagina della domenica dedicata a sport e business, che questa settimana non poteva che essere su quello che viene definito da altri giornali il caos Serie A, e già dal titolo il Sole 24 Ore ci fa capire che adesso, a parte quello che viene in questo momento definito caos, è tutto rinviato a settembre, tutto da rifare, bando sui diritti TV della Serie A rinviato a settembre. Poi, come sapete ormai da 9 settimane, c'è due iniziative sul Sole 24 Ore della domenica nelle pagine dei commenti, una intervista che si intitola Tavola con, quindi un lungo dialogo di fronte appunto a un pranzo o a una cena, e questi sono tutti incontri che fa Paolo Bricco, inviato del Sole 24 Ore. Questa settimana, forse l'avete sentito anche nel GR delle 7 con Giuseppe Giuseppe Zampini, presidente di Ansaldo Energia, dall'Iriche fu al capitalismo globale. Trovate questo, questo racconto, questo incontro a pagina 16. A pagina 17 invece la nona puntata del Viaggio nell'anima dell'Europa di Carlo Ossola. Questa settimana Carlo Ossola è a Mistra, in Grecia, nel Peloponneso. Ci sono luoghi dove si vorrebbe vivere e altri in cui raccogliere con concisa serietà l'essenziale della vita, e secondo Carlo Ossola Mistra è uno di questi. Dalle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento su quello che sta succedendo in Gran Bretagna e nel Regno Unito dopo il voto dell'8 giugno, che sapete ha visto questa sconfitta di Theresa May. Il suo partito e i conservatori hanno ancora la maggioranza, ma non la maggioranza assoluta. Era partita, quando ha indetto le elezioni, con 20 punti di vantaggio su Jeremy Corbyn e sui laburisti, e si è finita con pochi punti di vantaggio. E la prima mossa è che sono stati licenziati di fatto i due consiglieri, Steven Tyler e Joe Perry, un uomo e una donna, che erano stati consiglieri della campagna elettorale di Theresa May. Ora però, sottolineano tutti i giornali, c'è anche tutta una resa dei conti interna al partito dei conservatori, e secondo Luigi Ippolito, corrispondente da Londra, addirittura sono già partiti quelli che lui definisce i giochi per la successione alla Premier. E un approfondimento sempre di Luigi Ippolito su questa intesa che potrebbe esserci sul partito unionista dell'Irlanda. E qui dovremmo tutti un po' ricordare, anche perché sicuramente non molti di noi ne hanno sentito parlare, che questo partito è un partito che potremmo definire ultraconservatore, ma forse anche un insulto ai conservatori in altro senso. Il capo di questo partito, che è una donna, definisce l'omosessualità, per esempio, repellente. E invece la leader scozzese, che è comunque un altro pedina importante di questo nuovo Parlamento, è, pensate, è lesbica, quindi si annunciano sicuramente scintille se veramente questa alleanza tra il partito dei conservatori di Theresa May e quello degli unionisti, che hanno 10 seggi che fanno molto comoda Theresa May, se questa alleanza andrà in porto. Sempre a proposito di Regno Unito, Paola De Carolis riprende le rivelazioni dei giornali inglesi di ieri. È in uscita un nuovo libro su Lady Di, perché durante nel preparare il famoso libro che poi venne pubblicato da Andrew Morton, Lady Di registrò molte conversazioni, molte confessioni. Il Corriere della Sera sceglie di titolare così: diventai bulimica per colpa di Carlo. Un titolo molto sbrigativo. Io ho letto ieri, perché ho provo da sempre una grande, diciamo, anche curiosità per la figura di Lady Diana. E in realtà lei semplicemente racconta che quando appunto si ammalò di questo disturbo alimentare, che normalmente colpisce le adolescenti, ma lei era ormai sposata, quindi aveva 20 anni. Racconta che secondo lei, ricostruisce che fu per colpa di un commento di Carlo, o meglio, lei associa questo suo bisogno di abbuffarsi al fatto che Carlo le disse che aveva un po' di pancetta. In realtà ci sono molte altre cose in queste registrazioni, che forse a chi naturalmente interessa la vicenda umana di Lady Diana sarebbero più interessanti e meriterebbero un titolo forse più che questo virgolettato, anche perché lei non dice esattamente diventai bulimica per colpa di Carlo. Scusate questa digressione, ma mi sembra sempre così inutile, ecco, quando si fanno dei titoli senza veramente andare a vedere, a leggere con cura, specie su argomenti così delicati, da dove viene questo titolo. Molto interessante sul Corriere, come ogni domenica, la parte dedicata alla salute, perché il focus di oggi è sugli organi, e in particolare i nostri organi del corpo umano, quelli che vengono considerati inutili, come l'appendice, no? Si dice spesso che l'appendice è una cosa che viene dal passato, che non ha più utilità, e il Corriere Salute invece ci spiega: ci sono davvero organi inutili? C'è stato un periodo in cui si toglievano appendice e tonsille anche se non presentavano problemi, perché convinti che non servissero a nulla. Invece oggi sappiamo che queste e altre parti del nostro corpo ritenute prive di funzioni hanno tutte una loro ragion d'essere e non vanno ritenute di serie B. E il nostro corpo si conferma quella macchina meravigliosa e anche molto misteriosa che è. Dal Messaggero vi segnalo una pagina nella cronaca di Roma che ancora spiega, soprattutto a chi magari non frequenta Roma, non vive a Roma, quali sono per esempio i problemi intorno al Colosseo. Affari d'oro per gli abusivi. L'anfiteatro è preso d'assalto dagli ambulanti, sabato e domenica facciamo fino a 70 euro, dopo il no del TAR alla riforma Franceschini si torna all'antico, nell'area nessun controllo. La Repubblica ha un'inchiesta sugli autovelox, multe da record, la trovate a pagina 14 e 15, i comuni fanno cassa ma non investono in sicurezza, quindi è un po' sempre la solita logica malefica italiana del breve periodo, cioè appunto fare molte multe con gli autovelox, fare cassa ma lasciare magari la manutenzione delle strade o in generale tutto quello che può riguardare la sicurezza delle strade così alla buona sorte. L'articolo su Melania, a proposito di figure femminili secondo me comunque interessanti e affascinanti, l'articolo su Melania che trasloca lo trovate a pagina 17 della Repubblica. Ci lasciamo però un attimo per un aggiornamento sul traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta In Primo Piano. Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della rassegna stampa. Non posso non segnalarvi questa bella pagina della Repubblica, è un articolo di divulgazione scientifica, prende spunto da uno studio dell'Università Veterinaria di Vienna che ha concluso che i cani riconoscono quando vengono loro inflitti dei torti. Caro padrone, sei proprio ingiusto, così i cani riconoscono i torti subiti. I cani, appunto come i lupi, soffrono quando percepiscono una disparità di trattamento. Come dico sempre, se mai ce ne fosse bisogno di sapere che gli animali hanno una vita emotiva, anche se naturalmente più difficile da comprendere della nostra, ecco qua l'ennesimo studio. Dalla Stampa vi segnalo anche l'inchiesta della domenica, pagina 8 e 9, riguarda Matera, che sapete è stata scelta come capitale della cultura europea del 2019, ma andando a vedere come si sta muovendo la città, l'amministrazione per avvicinarsi a questo traguardo, Matera, capitale isolata, non usa i fondi della cultura. A 2 anni e mezzo dalla scelta, racconta Sandro Capelletto, e malgrado i 217 milioni di budget, mancano collegamenti, accoglienza e coordinamento delle attrazioni turistiche. In alto mare, il raddoppio della ferrovia e della statale. Il sindaco e la fondazione litigano, i cantieri restano fermi e l'Europa avvisa: così non va. Ma veniamo ai supplementi della domenica per quest'ultima parte della nostra rassegna. Come sempre iniziamo da quello del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Insegnare e prende spunto da una citazione di un poeta inglese, Alexander Pope, la citazione è questa: bisogna insegnare agli uomini avendo l'aria di non insegnare affatto, proponendo cose che loro non sanno, come se le avessero soltanto dimenticate. E scrive Gianfranco Ravasi: in questi giorni giunge a conclusione l'anno scolastico. Ho trascorso una parte importante della mia vita insegnando e sono per primo consapevole degli errori di metodo che ho commesso, per cui sono sempre restio a condannare un docente, anche se le ragioni possono essere talora valide. In realtà non si dovrebbe insegnare solo quello che si sa o si crede di sapere, ma anche ciò che si è. Detto questo, tra i tanti consigli per genitori e maestri che si sono coniati nella storia, ho scelto questo appello che mi è apparso piuttosto originale. Leggo che è stato formulato dal poeta inglese Alexander Pope, vissuto tra il 600 e il 700, un caso particolare di studioso a cui fu vietata la frequentazione scolastica per cause confessionali, essendo di famiglia cattolica in un paese anglicano. La sua proposta è suggestiva ed è un risvolto di quella che gli antichi greci chiamavano la maieutica, cioè l'estrarre dalla mente del discepolo i germi di verità deposti in essa per farli crescere e fiorire. Anche perché è vero quello che Seneca scriveva all'amico Lucilio: docendo discitur, insegnando si impara. L'articolo però vero e proprio della copertina della Domenica è invece dedicato a un libro, per ora è uscito solo in inglese e in francese. In inglese è Early Greek Philosophy, edito dalla Harvard University Press. Il titolo scelto per la recensione in realtà è un'anticipazione di questo libro, che è scritto da due studiosi, Andrei Lax e Glenn Most. Non chiamateli presocratici. I primi filosofi greci, a loro è dedicato questo libro, non furono semplici precursori di Socrate, ma veri pionieri in materia di conoscenza dell'universo, ontologia e argomentazione. Un'altra bella storia, e questa volta coinvolge degli scienziati italiani, e c'è una foto di questi scienziati nel 1947, sono Gilberto Bernardini e Ettore Pancini al laboratorio della Testa Grigia in Valle d'Aosta, lì si facevano ispirare le particelle nate in cantina. 70 anni fa un esperimento tutto italiano sanciva la nascita della fisica subnucleare, ce lo racconta Vincenzo Barone. Poi, come sempre, alla Domenica il supplemento per i lettori più giovani, più piccoli. Ormai siamo arrivati al numero 31, la copertina di Guillaume Duprat, intitolato «Sei sicuro che la Terra è rotonda? Il cielo è uno spazio dove l'invisibile si mescola con il visibile. Noi possiamo immaginarci che esistano terre a forma di sfera, poligono, di isola. Lo facevano anche gli antichi ed è bello trovare le loro mappe». La lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Giuseppe Gallo. Dall'interno vi segnalo questo articolo interessantissimo di Telmo Pievani, che tra l'altro conoscete perché è una voce e interviene anche spesso a Radio 24, si intitola Le sorprese della natura. Pensate, in un anno sono state scoperte 18.000 specie e alcune hanno forme da fantascienza. Non ci sono le foto, ma un disegno bellissimo che appunto le illustra. Sempre dalla Repubblica una lunga intervista di Vincenzo Trione, critico d'arte, curatore anche del padiglione della Biennale di Venezia 2 anni fa, Anselm Kiefer, che viene definito uno dei grandi artisti del nostro tempo, è uno scultore, pittore tedesco, molto famoso anche per le sue riflessioni in forma artistica sull'Olocausto, e in questo caso non è più che un'intervista impossibile, scrive Rione, è una sorta di confronto un po' immaginato tra Kiefer e Rodin, il grande scultore che morì esattamente un anno fa, e scrive Trione, segnò il trapasso tra 800 e 900. C'è una mostra a Parigi che appunto funge da spunto per questo dialogo di Vincenzo Trione con naturalmente solo Anselm Kiefer, ma un po' come convitato di pietra Rodin. Un'altra bellissima intervista la trovate di Paola Casella, la trovate a pagina 37, a Neil Gaiman, che è un grandissimo illustratore e scrittore. Ai lettori serve un amico nell'oscurità, scrittore e sceneggiatore inglese, per esempio del cartone animato Coraline, ha sdoganato il genere horror per l'infanzia. Cerco di aiutare le persone a vedere i loro problemi con gli occhi di quelli che ci sono passati. Ci vuole fiducia nei giovani, oggi i genitori tendono a divorare i figli, invece bisogna capire quando è tempo di lasciare loro la scena. La copertina di Robinson, il supplemento La Domenica, dedicato agli Stati Uniti, con un lunghissimo articolo di Philip Roth, C'era una volta l'America, c'era una volta l'Europa. L'intervista straparlando di Antonio Gnoli, corredata dal solito ritratto di Riccardo Mannelli, solito bellissimo ritratto di Riccardo Mannelli, è molto interessante. Questa settimana è Teresa Forcades, è una suora di clausura catalana, ma è anche teologa, militante femminista, animatrice di un movimento politico progressista che si batte per l'indipendenza della Catalogna. E sapete che forse a ottobre ci sarà proprio un referendum per l'indipendenza della Catalogna. Antonio Gnoli ha raccontato: «Ho lasciato l'università di Harvard per il convento, qui ho capito che non è soltanto Dio il creatore del mondo. Noi continuiamo a svolgere il suo lavoro con altri strumenti». La copertina di Alias del Manifesto una lunga recensione a un libro di Juan José Saer, Le nuvole, l'assedio di Saer alla realtà, mentre la copertina di Macro del Messaggero è dedicata a una particolare forma di tango che si chiama comparsita, il tango dei tanghi, un secolo di passione. Era l'ultima segnalazione per oggi, vi do appuntamento a domani, perché settimana prossima Alessandro Milan è in vacanza, quindi cercherò di sostituirlo dalle 6:30 in poi. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, un grazie a Paolo Corleoni in regia e a tutti voi che ci avete seguito.